Quando ti siedi in un ristorante dove si pagano 100 euro, non puoi pensare di mangiare con 10 euro, è chiaro. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Non credo che tra Juventus e Real Madrid e Real Madrid e Juventus nella partita di ritorno siano due partite che finiranno 0-0. Sarà della Juve la calcio d'inizio, sta per cominciare l'andata della semifinale di Champions League. Un'italiana torna in semifinale dopo 5 anni, la Juve dopo 12 partiti, primo pallone giocato dalla Juve. Doppio scambio Lichtsteiner e Marchisio, poi ottimo il movimento di Tevez, in area Tevez, porta il tiro, porta la rete! Morata, Juventus in vantaggio! Difeso da Rodriguez, l'allarga per Carvajal, di ritorno ancora per Rodriguez, grande giocato Rodriguez, il pallonetto, Ronaldo ha pareggiato il Real, questa è una grande azione. Tevez, Morata battuto, Tevez in aria, Tevez, calcio di rigore, del tiro, rete, Juventus in vantaggio, Carlitos Tevez, esplode lo Juventus Stadium. Vi confesso che ho alzato il volume delle cuffie. Giorgio De Luca, il nostro autore, con i buoni amici in redazione, Gianmarco Veronati in regia. Allora, ragazzi, 800 24 00 24, perché dopo una serata come quella di ieri, e io non sono juventino, non ditemi che sono juventino, però a me ieri sera la Juventus ha eccitato un sacco. Ha ragione Paolo Condò quando scrive che comunque vada, e questo vale per il calcio italiano, adesso non facciamo troppa retorica, però vale per il calcio italiano, la squadra di Allegri è diventata una grande squadra europea, questo è vero, sono d'accordo. Poi vediamo come il Real Madrid riuscirà a raddrizzare questo risultato. Io sono dell'idea che la Juventus debba andare a Madrid con l'idea di assolutamente di fare un gol. Poi ci sono un sacco di statistiche che poi vi dico e che consiglio ai juventini di prendere con beneficio di inventario, magari allungando le mani su parti poco nobili del corpo. Però Real Madrid 7 volte semifinalista, con andata fuori casa è passato solo 2 volte. La Juventus mai eliminata dopo un 2-1 in casa, 4-4. Ripristiniamo per favore la linea e i collegamenti in provincia di Rimini, perché la radio non si sente. Grandi gufi, avanti così, siete una banda di frustrati, specialmente l'amico Roberto, povero sfigato interista. Questi alcuni dei messaggi, vi aspetto tutti, 800 24 00 24, oppure 349 238 6666. Ma quanto vale adesso Morata? Vale quanto prima, pur dopo quel tap-in di ieri. Allora, la Juventus può andare a Berlino? Sì. La Juventus crede di andare a Berlino? Sì. La conferma mi arriva da un uccellino che mi dice che ieri sera nello spogliatoio della Juve, nel corridoio, nello spogliatoio della Juve, nelle segrete stanze, non c'era una grande festa. E questo è un eccellente segnale. Sentiamo Max Allegri. Sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi, credo che questo sia, diciamo, un giusto premio che si sono meritati, perché arrivare in semifinale di Champions non è facile, e soprattutto giocare contro il Real Madrid una partita del genere, credo che ci sia tutto il merito dei ragazzi che hanno fatto veramente una partita come intensità straordinaria. C'è chi ha la pelle d'oca come Marco che mi dice di andare in Mona. Mi invito ad andare in Mona insieme alla Juventus. Io andrei a Berlino insieme alla Juventus e andrei pure a Varsavia insieme al Napoli e alla Fiorentina. Guardate un po'. Ancelotti. Credo che è stata sfortuna, perché abbiamo tirato al limite sul rimpallo, è partita questo contropiede, credo che è stato soprattutto un episodio sfortunato come è stata la traversa. La pressione su Pirlo ci portava ad aprire un po' troppo la linea dei centrocampisti, e loro potevano, come è successo all'inizio, trovavano un passaggio facile per Tevez che ci ha creato difficoltà. Allora abbiamo pensato di aspettare un po' e di lasciarlo giocare un po' più libero. Allora, amo Carlo Ancelotti alla follia e lo amerò sempre, sportivamente parlando, si intende. Però la traversa di James Rodriguez, come ha detto anche Buffon, è stata fortuna. Quel rimpallo invece che ha portato al gol si chiama presunzione del Real Madrid. Arturo Vidal con Dario Ricci, che ieri sera era a Torino per noi. Continua, ancora 90 minuti per arrivare in Belline. Alla finale, sì, importante, come l'ho detto, siamo una squadra matura, penso che abbiamo fatto un'ottima partita oggi, dobbiamo ancora giocare meglio di là per andare in finale. Dove l'avete vinta, Arturo, oggi questa partita dal punto di vista tattico? Quando abbiamo fatto due gol, no, quando l'abbiamo giocato, quando abbiamo preso la palla, l'abbiamo giocato come una squadra matura e il Real ha sentito quello. Ah, la Juve Borussia sarà dura. Ah, non può andare avanti in Champions. Ah, come mai vince il campionato e in Champions non va avanti? Che strage nei boschi dei gufi! Tutti convocati. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta... Convocati. Sono pronto a litigare furiosamente con chi critica Carlo Ancelotti, che ieri sera ha sbagliato tutto, ma lo difenderò fino alla morte perché è uno dei miei idoli sportivi. Io saluto Pierluigi Pardo, che è a Siviglia. Ciao Pier. Ciao, sono là. Molto bene, saluto anche il direttore Luciano Moggi, che non è Andro Mercui il nostro imitatore, ma è quello vero. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ci siamo divertiti anche diverse volte. Un saluto, anche se pure Andro Mercui è vero. Andro Mercui è vero, ma... Talmente possibile che diventa vero. Luciano Moggi, domanda banale: quanto vale questa squadra rispetto a quella del 2003 con cui eliminaste Real Madrid? Beh, non si possono fare paragoni. Questa però è una buona squadra. Magari all'inizio erano più campioni. È solo buona? È solo buona? Beh, direi che è ottima, anche perché è tra le prime quattro d'Europa. Volere o non volere, semifinale di Coppa dei Campioni. Tanti dicono, per effetto di sorteggi favorevoli, la realtà è che per arrivare alle semifinali bisogna essere bravi. E la Juventus è stata brava. Cioè, ieri sera mi viene da dire che è stata bravissima, perché appunto, i primi 20 appunto. Minuti sono stati... E non hanno fatto vedere palla al Real Madrid, quindi voglio dire, poi dovrebbero prendere tutti esempio della Juventus, perché voi avete visto con quale accanimento, con quale voglia di vincere si sono posti in campo i giocatori della Juventus. Sono tanti che parlano, la Juventus invece mette in campo le sue risorse nel migliore dei modi, perché la voglia di vincere è la cosa principale, è il DNA di una squadra e di una società. Quindi sì. Voi vedete le altre squadre, vedete l'Inter, il Milan, vedete il Napoli stesso, hanno approcci diversi alle partite. Inter e Milan spariamo sulla Croce Rossa in questo momento. No, vabbè, parliamo del Napoli, ha un approccio diverso. Se voi considerate che il Napoli sta lontano dalla prima in classifica per effetto di partite che si chiamano Empoli, che si chiamano Chievo, che si chiamano tutte le più facili, Sassuolo eccetera, le presunte più facili, non sempre sono facili, viene da dire che praticamente l'approccio dei giocatori della Juventus è tutto diverso. Questo è verissimo. Pardo. Completamente. Sì, no, cioè questo elemento di DNA della società è indiscutibile, insomma, no? Ci sono grandi discussioni, la Juve, soprattutto la Juve degli ultimi anni, ma insomma è un tratto storico di questa società, gioca sempre col coltello tra i denti, difficilmente ha dei cali di tensione. Io ero abbastanza convinto che potesse fare una buona partita. Ieri però è venuto fuori, secondo me, qualcosa di più di quello che si poteva immaginare. Sì, nel senso sì. Che poi alla fine vero paradosso secondo me è che il Real Madrid è una squadra che spende 110 milioni per Bale, che ha giocatori fantastici. Poi paradossalmente il testimone è un po' corta, se sta male Modric, per esempio Ramos sarà no, Sergio, onestamente, io Pier, tu lo sai, io l'ho detto prima, lo dichiaro e lo confermo, difenderò Ancelotti a sangue fino alla fine, perché è uno dei miei idoli sportivi, però Sergio Ramos al centrocampo è stata una cazzata, e questo è inutile, ma è nei fatti. Secondo me è quello che si diceva qualche giorno fa, aspetta che non ti sento, ti richiamo Pierluigi Pardo, vado ancora su Luciano Moggi, e parlavamo di allenatori. Allegri secondo me in questa stagione sta facendo l'esame di laurea e sta diventando un grande allenatore, ed è promosso a pieni voti, promosso a pieni voti, perché come ha gestito la stagione è stato straordinario qui. Ma ieri guardate un attimo la formazione, ha avuto il coraggio di mettere Sturaro, ma non è un coraggio, è la certezza di avere un giocatore in mano che poteva essere utile, perché è il primo difensore al centrocampo di una squadra di calcio, e credo che ieri Sturaro sia dimostrato quello che va, insomma, pur essendo giovane. Sì. La realtà è una un po' particolare. Quando si parla di Real Madrid si parla di una squadra che non è una squadra omogenea. La Juventus è un gruppo omogeneo. Il Real Madrid ha delle individualità che, tra l'altro, arriverei a dire in qualche modo qualcuna anche ne potrebbe fare a meno. Per esempio Marcelo, lo troviamo sempre da tutte le parti, è encomiabile come prestazione fisica, agonistica, sì. Però quando deve stare in difesa va all'attacco, quando deve stare all'attacco va in difesa. Posso dire che anche Bale 100 milioni è un problema? Bale, se quello di ieri sera sarebbe un problema, se quello che ha dimostrato in passato non è più un problema, a parte i 100 milioni che non sarebbero da spendere. Sì. Credo che per un giocatore spendere 100 milioni, però questo qua sicuramente ha un valore, non si può discutere Bale. Ieri evidentemente la difesa della Juventus è stata superiore alle aspettative anche per Bale. Non c'è dubbio. Pierluigi, sei tornato? Sì, no, ma in realtà ce l'ho sempre, ma di là del fatto che ci fossi conto a zero. No, io credo che il punto sia proprio questo, cioè ne parlavamo con Rizzi qualche settimana fa, cioè il Real Madrid ha una serie di giocatori talmente importanti, talmente pagati, talmente ingombranti, che è anche difficile far fare delle rotazioni e far crescere il gruppo dietro. No? Beh, è un paradosso, però è così, insomma, secondo me. La Juve ha una rosa di 20 giocatori molto più compatta, molto livellata, molto più equilibrata, al di là dello spirito di gruppo. Detto questo, poi al ritorno vediamo, nel senso che è ovvio che il Bernabeu 2-1 non è, la sconfitta per 2-1 non è un risultato insormontabile. No, certo. Però io credo che ieri intanto una cosa è stata, un pericolo è stato scongiurato, quello della figuraccia, che in qualche modo, avevamo detto, a me sembrava improbabile, fortunatamente per la Juve c'è stata la conferma. La figuraccia vera e propria, la sconfitta netta avrebbe tolto qualcosa a una campagna europea che era già stata eccezionale. Adesso la Juve comunque andrà a finire al Bernabeu, secondo me quest'anno ha dimostrato di essere cresciuta tanto. Sì. E si è tolta, secondo me, qualsiasi complesso di inferiorità. Assolutamente, ma sai, mi raccontava il solito uccellino che ieri sera negli spogliatoi della Juventus non c'è stata grande festa. Nel tunnel, nello spogliatoio della Juventus c'erano facce concentrate. Pensa come è uscito Tevez dal campo, arrabbiato, sì, perché voleva fare il 3-1. No, poi c'è questa storia qui, secondo Olea, adesso è montata tutta questa campagna secondo cui Tevez aveva detto ad Allegri, quando l'ha levato al 42esimo secondo tempo per Pereira, cagon, quindi che facciamo? Ce la facciamo sotto, proviamo a vincere. Dire, poi sentiamo anche Moggi, ma se gli ho detto cagon è un ottimo segno, nel senso che ci sia un buon rapporto tra Tevez e Allegri è indiscutibile, perché uno che quasi fa fretta con in stagione, altrimenti non ha un buon rapporto con l'allenatore. È vero, Luciano. Se ieri è uscito arrabbiato è un buon segno. No, sono d'accordo con Pierluigi, il fatto che sia uscito dal campo arrabbiato è il segno migliore per una squadra che vuol vincere, perché quando i giocatori escono dal campo tranquillamente sono sempre quelli che praticamente si tolgono dalla battaglia. Tevez non è quello, Tevez praticamente è il giocatore che vuol giocare fino all'ultimo per essere importante fino all'ultimo. Io credo che, e l'abbiamo detto prima, che tutti quanti i giocatori che scendono in campo della Juventus hanno lo stesso carattere, su questo io penso che non ci siano dubbi, dalla difesa al centrocampo all'attacco, questa è la forza della Juventus. Magari Real Madrid può essere e sarà sicuramente più forte come qualità di giocatori singoli, però la sostanza qual è? Meno gruppo e meno squadra, e può subire la Juventus che è più squadra. Io, per quanto riguarda il discorso del ritorno, io posso essere d'accordo, anzi sono d'accordo con Pierluigi quando dice che non è insormontabile un risultato di 2-1, però attenzione, perché vedendo il Real Madrid di ieri sera, vedendo la difesa così scombinata, la Juventus può andare anche a difendersi, ma potrebbe anche offendere in contropiede. Sì, questo è sicuro. Questo è da tenere presente, anche perché non mi è sembrata né al centrocampo né in difesa, il centrocampo è la prima posizione di una squadra che praticamente sia imbattibile. Poi dopo c'è Ronaldo che risolve, magari ci sarà anche Bale che fa di più di quello che ha fatto ieri, ma la sostanza è che la Juventus potrebbe colpire il contropiede, ed è quella la tattica che userà naturalmente Massimiliano Allegri, non è che vada a scoprirsi per andare a cercare gloria. Senta, ma cosa manca alla Juventus per essere a livello di Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco? C'è un giocatore, due giocatori, tre giocatori che lei prenderebbe per la Juventus per portarla a quel livello? Beh, il Bayern Monaco adesso il Bayern Monaco non si può considerare, anche perché la mancanza di Ribéry, Robben, Benatia e Alaba penso che sia determinante agli effetti di questa Coppa. Se dovesse battere il Barcellona sarebbe veramente una sorpresa grandissima. Io credo che la più debole dei quattro sia proprio il Bayern Monaco, per effetto della mancanza di titolari importantissimi. Per quanto riguarda il Barcellona, meglio non parlarne. Io, se fossi praticamente nelle quattro, manderei la Coppa a Barcellona senza neppure giocarla. Io anche. La differenza tra Barcellona e le altre squadre è che esistono tre giocatori che tengono impegnato tutta la squadra avversaria, e si chiamano Neymar, Suarez, si chiamano Messi e Suarez. Certo. Quindi il problema non si può, è un confronto proprio improponibile. Un'ultima cosa le chiedo, Luciano Moggi, un suo parere, una sua opinione, un suo sentimento sulla questione del Milan e di questa presunta cessione che avviene, non avviene, ci sono cinesi da una parte, cinesi dall'altra parte, Berlusconi che cambia idea. Io mi sono già espresso in questo senso, il Milan sicuramente non vende, cioè Berlusconi non vende la maggioranza, Berlusconi cerca uno che praticamente lo possa entrare nella minoranza e possa dare una mano a questa squadra. Il problema poi del Milan è inutile stare a rivangarla, è una squadra fatta male, non è una squadra, non è una squadra, è un agglomerato di giocatori che praticamente non hanno un centrocampista che detta te. Sì. Hanno preso Destro che non è adatto al gioco che vorrebbero fare, perché Destro dovrebbe aprire gli spazi per i contropiedisti, Cerchi e compagni, perché lì sono tutte mezze punte, no? Sì. E invece non riesce a farlo. Menez è un gran giocatore quando segna gol, e quando non li segna però praticamente è un pasticcio per la squadra, perché non passa male la palla a nessuno. La difesa l'abbiamo vista quello che è. Il miglior giocatore, io parlo agonisticamente perché con i piedi non è certamente il migliore, è De Jong, che fa la diga in mezzo al campo e va da sotto. Sì. Questo è quello che mi domando io. Ma si trova al mondo uno che dà i soldi a Berlusconi per non comandare? Cioè si trova al mondo uno che arriva e ti dice magari gli può dare la possibilità, no, magari gli può dare la possibilità nel tempo di diventare maggiorazionista. Io poi questo non lo so, so soltanto che Berlusconi in queste condizioni, a meno che non ci sia un'offerta stratosferica che ritenga improbabile, non ha senso. Grazie Luciano Moggi. Grazie Pier. Sì, la volontà di giocare volanti, sì? Forse al volo, proprio sì, pure certo. La Juve, che il modello di partita già c'è davanti, che è Dortmund, a proposito di quello che diciamo oggi sulla tipo di partita da poter fare. Le analogie ci sono, il 2-1 dell'andata, la difesa degli avversari che non sembra perfetta, Dortmund, in questo caso il Real Madrid che dovrà un po' scoprirsi. Quello che mi fa più paura chiaramente è il Bernabeu ha una forza, il famoso piede scenico che può può mettere in difficoltà, però insomma io credo che sia apertissima, credo che sia veramente 50-50 in questo momento. Per quanto riguarda invece la partita del Barcellona, sicuramente il Barcellona è favorito stasera, però occhio, perché in un'eventuale partita secca poi molte distanze, già nelle due partite le distanze si possono livellare. Io credo che Real Madrid in assoluto nelle 38 partite sarebbe davanti. Sì, sì, lo credo anch'io. Però nella guarda, partita secca io credo che, cioè, il Barcellona nella partita secca sia praticamente inarrivabile, perché quando hai, ma diceva bene Moggi prima, che si può dire quello che si vuole, dite quello che volete, dite quello che volete, però uno che di calcio ci capisce. Con quei tre signori lì davanti è una squadra che nella partita secca è la peggiore rogna che ti possa mai capitare. Io vedo favorito il Barça, onestamente, in questo doppio confronto con il Bayern Monaco, che è la squadra che io prenderei subito per vincere un campionato, però le assenze Robben, Ribéry, Mandzukic con la maschera in faccia, eccetera eccetera, secondo me la fanno partire un gradino sotto rispetto al Barça. Torniamo a parlare di tutto questo e di molto altro anche con voi, 800 24 00 24, dopo la borsa. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia! Tutti convocati. Torniamo con gli ascoltatori, 800 24 00 24, il numero verde. Un sacco di ascoltatori in linea. Pierluigi Pardo? Eccolo. Ma vai a sentire, visto che sei a Siviglia, vai a sentire il flamenco alla carboneria, come mi suggerisce Giorgio De Luco. Preferisci altre carbonare? Non lo so, io preferisco altre carbonare. Questo deve aver avuto qualche storia, perché parla la carboneria ogni 2 minuti, quindi tu hai avuto una Amazon, una sevigliana. Beato lui. Beato. Forse del Betis, però. Del Betis, dici? Non so se è la sorella di Alonso, sai, Alonso la sorella che... Sì, lo so. So che Mandzukic gioca nell'Atletico Madrid, ho sbagliato interprete, me li confondo spesso, vi devo dire. Mandzukic e Lewandowski sono due che io non so perché, ma me li confondo. Certe volte penso Mandzukic e dico Lewandowski, certe volte penso Lewandowski e dico Mandzukic. Poi ci ha giocato Mandzukic. Se penso Adriana Lima, dico Adriana Lima, e non c'è storia. Ci può stare. Non penso che Fernando Alista e Adriana, no. Senti, facciamo Cesare, provincia di Venezia, buongiorno. Sì, carissimo Ginta, Pardo, grazie per avermi convocato. Due domande veloci. Sì. La prima, se mi date l'indirizzo di Antonio Conte, gli porti i 90 euro che gli mancano per arrivarci a sedere sul tavolo famoso da 100. Glielo manda Pardo via WhatsApp. Benissimo. La seconda, non è che se per sbaglio riusciamo a vincere la Coppa Campioni, abbiamo vinto uno scudetto e vinciamo la Coppa Italia, tutti i migliori giocatori tipo Pogba, Vidal se ne scappano? Attendo la vostra risposta. A me lo chiede, no, in quelle condizioni mi pare allora, dubbio. Ci sono in alcune circostanze, quando si fa il jackpot, si fa Morini all'Inter, ci può essere il rischio, no, del non avere un orizzonte, del non avere una prospettiva in più. Quindi cambiare, perché bisogna, però mi sembra francamente un problema. No, mi sembra appunto prematuro tra le varie ed eventuali, dai. Certi casi, io considero la gratitudine qualcosa di molto bello, ma che fa male alle squadre di calcio. Sì, sono d'accordo. Forse si è fatto prendere troppo dalla gratitudine, appunto, ma è normale. Quello fu il è facile dirlo adesso, io lo dissi anche allora, fu il peccato originale di Moratti, cioè si mise la pietra al collo di un sacco di contratti lunghi e pesantissimi con gli autori del triplete. Gesto di gratitudine. Il grande presidente della Roma, quando aveva visto questo nel 2001, probabilmente ha prolungato dei contratti che razionalmente non andavano prolungati, no? Perché un po' c'è la pressione della piazza, un po' c'è questa cosa bellissima che è la gratitudine, che io considero la categoria molto bella dello spirito e dell'anima, però è chiaro che magari porta a non essere troppo razionale. Detto questo, se succedesse questa cosa qui, lo auguro ovviamente di cuore all'ascoltatore che ci sta ascoltando, la Juve avrebbe a quel punto una possibilità di vendere in maniera straordinaria, cioè questi giocatori, come non li venderebbe, ne potrebbe vendere al massimo un paio, ma solo di fronte a delle offerte clamorose. E, insomma, l'apprezzamento della rosa, che già è enorme, sarebbe ancora più grande. Sì, sì, sì, sì, sono buone notizie, francamente. A parte che posso dire una cosa, se uno vince per la vita, poi insomma. Vediamo, no, ma poco, poi vediamo. No? Sono, insomma, non sono vari ed eventuali. Poi, allora, un gradino per volta. Intanto ci teniamo questo 2-1. Si va a Madrid con grande convinzione, perché questo è ciò che traspare dall'ambiente della Juventus. C'è uno che scrive: ciao, sono Sturaro, come vi è sembrata la partita di ieri? Adesso lo smascheriamo, perché lo chiamiamo, e se è davvero Sturaro, parla con noi. E poi Alberto da Genova, anzi, e prima Alberto da Genova, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dunque, brevissimo, il complimento alla Juventus, assolutamente sì. Però due considerazioni. Secondo me gli allenatori più bravi sono quelli che sanno, come dire, gridare nell'orecchio ai giocatori, però che sanno anche avere un equilibrio tattico. E Allegri, io ieri ha fatto una grande partita, ma secondo me la più grande partita di Allegri l'ha fatta con Milan, quando ha giocato contro l'Ajax al ritorno in Coppa dei Campioni, perché dimostra che insomma uno sa gestire i giocatori che ha e fare dei grandi risultati. Secondo me Allegri veramente è il migliore allenatore che potesse avere la Juventus. Sì, poi se vuole le faccio risentire i cori con cui è stato accolto, non so se ce li abbiamo in faretra, probabilmente sì, li abbiamo fatti ascoltare ieri. Allegri fu accolto il giorno dopo l'addio di Conte. Ce l'abbiamo? Aspetta, a dopo. Invece, come è stata accolta la partita di ieri in Spagna? Come l'hanno presa gli spagnoli? Yeah! La vuelta al Bernabéu! E la vuelta al Bernabéu! Madrid Juve al Bernabéu, la vuelta! Sì! Eso se llama Road to Berlin! Militar a Carvajal, Carvajal con James, qué buena, James, Cristiano, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, parar. Venga. Vamos, portero. Ahora te ves. Ay, cómo la pone Iker. Va Tevez, el argentino, coge carrera, bajo palo Casilla, le va a pegar Tevez. Gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Le pegó Tevez con pierna derecha, pelota al centro, engañó a Iker, que voló a la izquierda. Vuelve a cambiar la película. Juve 2, Real Madrid 1. Incasso la battuta di Piero da Modena, che mi scrive una mail. Ho detto che Moggia è uno che di calcio ci capisce, e come? Poi possiamo fare un miliardo di altri discorsi, ma parlavamo di calcio. E mi scrive: ci capisce anche di schede svizzere, ma la Telecom non lo ha mai intervistato. Sarà che questo non è il mestiere della Telecom. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buon pomeriggio. Come l'abbiamo presa? Dove sei? Dove sei? Donde stai? Infatti no, il saluto è buona tarda, perché sono a Barcellona in attesa di questa, la partita con i due palloni. Servono due palloni stasera, però ne parliamo dopo magari. Due palloni. No, adesso sono a Barcellona e l'hanno presa male, perché hanno scoperto un paio di cose. Uno, che la Juventus poi non è così male. Loro pensavano, non so, forse di affrontare il Novara, avete messo prima quel pezzo di Ronzero, il giornalista con la bufanda, sì. E con la sciarpa, vabbè, quindi hanno scoperto la Juve. E la seconda cosa, si stanno rendendo conto che, cosa che noi diciamo qui da ormai un anno, che gli manca un centrocampista difensivo. Perché quindi l'equilibrio va a farsi... Sì, però tra mancarti un centrocampista difensivo e far giocare un difensore a centrocampo, passa una certa differenza. Allora, perché è vero che Desailly è stato inventato da Capello da stopper a mediano. Ma davanti alla difesa, non a fare esatto. Pierluigi, allora, dicevi? No, dicevo che senza doppie pivote non si va da nessuna parte. Capello è stato inventato nella seconda stagione. Ma non fa il pivote però, Ramos, questo è il problema. Non lo fa, magari per Real Madrid il pivote, è proprio quell'assenza di equilibrio che è stata, no? Ma io ti ho citato prima. Sei sparito, aspetta un attimo, mentre c'è il traffico ti richiamiamo, Sei sparito dai monitor, dai radar, traffico. Tutti convocati. Convocati. Uomo di merda, arrivi uomo di merda, uomo di merda, arrivi uomo di merda. Allegri fu accolto così il giorno del suo arrivo alla Juventus. Oggi invece la musica è diversa. Secondo voi Mourinho come stipendio vale 4 volte Allegri? Scrive domanda Ale da Finale Credo Ligure. Dicevamo Filippo Maria Ricci? Una cosa, vorrei spezzare una lancia per Sergio Ramos. Sì, ma anche due. Uno dei migliori difensori del mondo. Ma, Filippo, io spezzo tutte le lance come per Sergio Ramos e ho detto prima, sono pronto ad incatenarmi a Val di Bebas per difendere Carlo Ancelotti. Sì, okay. Allora, lì questa è la premessa. Andiamo una cosa alla volta. Prima Sergio Ramos, questo è uno dei migliori difensori del mondo. Gli viene chiesto di sacrificarsi per la squadra e lo va, lui sta, perché questa è la terza partita, lui sta benissimo. Terza partita che gioca lì, sa benissimo che va in contrafiguracce, perché un conto sarebbe stato mettersi davanti alla difesa come faceva Mourinho con Pepe. No, lui deve andare lì in un posto dove teoricamente devi organizzare, collaborare, partecipare, e non ce la fa. Ieri sera lui è venuto in zona mista ed c'è una onestà intellettuale e una, no, ci ha messo la faccia per la squadra, per l'allenatore, e no, per la situazione, che è encomiabile. Veramente io devo dire Carlo Ancelotti. Allora lì c'è un problema grosso. Il Madrid spende, no, milioni di milioni e poi riesce ad avere una rosa che non è equilibrata e che soprattutto non ha panchina, perché se tu guardi il Bayern Monaco hanno delle assenze, ma hanno comunque uno squadrone. Sì, poi se ti mancano i fenomeni è un'altra storia, Sì, però intanto stasera lui Pep comunque schiera una formazione che non è male. Ieri tu c'hai tre giocatori lì che sono Khedira, Gerramendi e Lucas Silva, costati in tutto più o meno 70 milioni, e non te ne serve nemmeno uno, e devi andare a sacrificare il povero Sergio Ramos lì e fa una figuraccia. Allora, lì Ancelotti io lo capisco, però fino a un certo punto, perché almeno Sergio Ramos poteva giocare davanti alla difesa e cross andare a fare quello che ha sempre fatto nella vita, cioè giocare 20-30 metri più avanti. Perché con l'Atletico gli ha funzionato, perché? Perché l'Atletico è un gioco diretto, e tante palle alte, lanci lunghi. Allora, Ramos andava più o meno bene, però dopo già col Siviglia ha sofferto, è una squadra che gioca di più, e con la Juventus ieri il poveretto è naufragato lì. Io dico che Carlo poteva fare qualcosa di più. Ma no, perché che dire Gerramendi sono allora, scomparsi, no, dalle rotazioni. Gerramendi lui non lo vede, non lo vede. Pagato 40 milioni, però non lo vuol vedere. Quotazioni assurde. 40 milioni, però è il suo ruolo, Pier. Lo so, sì, però... sì, no, ma infatti probabilmente col seno di voi potrebbe essere meglio per il Real metterlo perché Ramos, certo, ha faticato tantissimo. Detto questo, il paradosso di fondo del Real Madrid rimane: questa è una squadra che spende 35 milioni per i Chiaramenti, spende 110 milioni per Bale, ma che poi di fatto non ha una rosa di 18-20 giocatori veri. Cioè, dal punto di vista della profondità della rosa, è più forte la Juve. Ne ha 12-13. Capisci? Parliamo di Gareth Bale. Allora, se tu gli dai il giavellotto, magari quello a 80 metri te lo tira, cioè, salto in alto un 2,20, secondo me lo fa. Però poi giocare a calcio è un'altra cosa, soprattutto poi se ti hanno pagato 100 milioni, quindi la gente giustamente pretende qualcosina in più. Però il ragazzo non sa, e non può uscire, non esce mai. Ieri non si capisce perché resta in campo lui ed esca Isco, quando forse hai bisogno di tenere la palla, c'è già Sergio Ramos dall'altra parte che è in difficoltà, no? No, però non esce mai. E questo perché? Perché c'è un presidente che così ha deciso, e Carlo lo sappiamo com'è, non è il tipo che si mette a... Ma non è solo Carlo, Filippo, non è solo Carlo, sono anche tutti gli altri. Non dimentichiamo che Capello, ma me lo raccontate tutte le volte, tu e Pardo, che Capello fu cacciato via. Capello, che... almeno Capello andava avanti con le sue idee. Capello, guardate, io voglio bene Ancelotti, Ma anche ma perché Carletto non ha fatto niente, scusa Pier? Non punta i piedi come dovrebbe. Però sono due filosofie completamente diverse. Premesso che poi magari Ancelotti ritorno vince 4-0, tutto può succedere, però io sono d'accordo con te. Io credo che Carletto abbia avuto la forza di mettersi, non abbia avuto paura di mettersi contro una buona parte della piazza madridista, perché non riesco. È vero che è stato cacciato. Infatti è vero che sono cacciato. Sì, sì. Gioco famoso dopo il spote, che sapete, una bestemmia per Pirola e per Piano, non riesco a sentirti. Cioè, io ho comunque messaggio... continuo io. Stavo leggendo un messaggio meraviglioso che mi ha fatto morire da ridere, di Giovanni da Milano. A Pardo, mettete una parabola sulla testa. Mi ha scritto Giovanni. Facciamo fatica. A Siviglia. Dove commentare la Fiorentina, ma si fa fatica. No, dicevi, Phil? No, dico, se vuoi posso finire io il discorso di Pierluigi, sì? Che tanto Capello ha fatto delle scelte, diciamo, più coraggiose, perché così è la sua indole. Capello è uno che si scontra, Carlo è uno che le difficoltà cerca. È sempre stato. Esatto, quindi però lì il problema si vedeva dall'inizio, perché quando nel momento in cui Carlo non pensava che gli vendessero Xabi Alonso, cioè Xabi Alonso ha deciso di andare via per motivi suoi e se n'è andato, no? Da quel momento in poi lui ha provato a mettere insieme, a trovare questo equilibrio che aveva trovato con grande fatica l'anno scorso a gennaio con Xabi Alonso e Di Maria, venduti tutti e due, e ha fatto fatica, non è riuscito perché non c'ha gli uomini, perché Khedira sarebbe l'uomo giusto, però Khedira ha deciso che se ne va via e a fine contratto ormai si è tolto di mezzo. Chiaramente lui non lo vede, hanno comprato Lucas Silva, che aveva vinto sì il campionato brasiliano, però evidentemente non l'ha convinto, però non ha mai insistito, non gli ha dato 10 partite di fila per vedere com'è sto brasiliano. Probabilmente gli indizi non sono positivi, e quindi però è possibile che tu spendi una squadra da no, 1.000 milioni e ti ritrovi con sto poveretto, sto Sergio Ramos lì sbattuto lì in mezzo e preso da tutte le parti? Cioè non esiste, non è una squadra di terza fila. Questo stiamo parlando di un mercato faraonico. No, certo, rimane da domandarsi perché comunque quelli designati non giocano. Vabbè, che dire a fine contratto, Lucas Silva magari non lo convince. Chiaramente non gli piace, ma famo qualcosa. Dalle tue parole, però, mi sembra di capire che la grande favorita è la Juventus a questo punto. Cioè, allora, tu vedi favorita la Juventus. Allora, è chiaro che 1-0 Madrid lo può fare. Vuol dire, cioè, abbiamo intanto due cose. Abbiamo l'esempio del Porto di 2 settimane fa, no? Sì, sì, quello, col Bayern, il Porto non è la Juve, Filippo. No, d'accordo, però. Nessuno pensava che perdesse 5-0 al primo tempo, no? A Monaco, no? Questo. 1-0 il Real Madrid lo può recuperare, però io dico occhio, questa Juventus, cioè, 1-1 può farlo tranquillamente e può segnare al Bernabeu. Io la vedo bene. È chiaro, ci voleva il gol di Llorente e allora sarebbe stata un'altra storia. Senza quel gol la partita è aperta, però qua ovviamente sono tutti convinti che adesso sì, si rimonta, tutto a posto, ma erano altresì convinti che a Torino non era una passeggiata, però andava tutto bene. Questo Madrid ha delle difficoltà evidenti e non le risolve in una settimana, anche perché adesso torna Benzema, quindi sì. Teoricamente dovrà giocare con James, Isco e Kroos e con la BBC davanti. E lì l'equilibrio dov'è? No, l'equilibrio non c'è, ma forse in questo momento è in un'esigenza di rimonta. È l'unica strada percorribile. No, è la strada percorribile per Ancelotti, che l'anno scorso si aspettava di andare a centrocampo più la chiave per andare a vincere tutto. Io penso che, come dicevo prima, che intanto abbiamo dimostrato, l'Italia, la Juve ha dimostrato al mondo che è competitiva, assolutamente competitiva, e che può giocare alla pari. Poi è chiaro che il Bernabeu, il Benito, tutte le cose che abbiamo sentito dire, e la qualità indiscutibile di alcuni fuori classe, perché pure ieri, chiaramente c'è la felicità del fatto che la Juve abbia giocato meglio, che il calcio italiano abbia detto lo spagnolo. Siamo avanti quest'anno del ranking, però ci sarà anche un momento, va detto, sull'1-1 che il Real Madrid ha giocato certo, meglio. Vabbè, ma è sempre il Real Madrid. Ragazzi, vi devo salutare perché ho il GR. Grazie Filippo Maria Ricci, Pier, con te naturalmente ci sentiamo domani. GR, poi torniamo. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni alle 9 su Radio 24 con le provocazioni dei faccia a faccia, le inchieste, le sfide della gente e ancora le novità in rosa di Sara Tardelli, i graffi di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia di Marina Milone. Ogni giorno andiamo a caccia di verità con il fact checking, le parole alla prova dei fatti. Mix 24 di Giovanni Minoli, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 su Radio 24. Dire, arieccici. Tutti convocati. Io capisco tutto, ma se si può scegliere una collocazione più infame di così per una partita di Serie A, fatemelo sapere. Si sta giocando Torino-Empoli, che per il Toro vale anche parecchio, e l'Empoli è appena passato in vantaggio con un autogol clamoroso di Padelli. Lo leggo, non l'ho visto, ve lo confesso. Roberto da Fermo, buongiorno. 800240024 numero verde, buongiorno. Grazie per avermi convocato. Grazie a lei. Allora, dovevo fare due osservazioni, se mi è permesso. Sì. Allora, la prima soltanto riguardo, ecco, la Juventus, della splendida prestazione che ha fatto ieri sera la Juventus, alla faccia un pochino di tutte quante le critiche che ha sempre subito, perché si è sempre sentita dire che la Juventus è forte in Italia, ma non all'estero quando affronta le squadre straniere. E l'altra è un po' un luogo comune, esatto, diciamo che la Juventus, esatto, non ha il DNA dell'asso pigliatutto in Europa, ma questa è una storia molto vecchia. Sì. Uh-huh. La seconda osservazione era quella che rischiamo quest'anno, e mi dispiace dirlo che anche in questo studio è stato fatto sempre questo discorso da qualche mese a questa parte, che il calcio italiano non è ai livelli di quello straniero, invece rischiamo forse di trovare tre squadre italiane in finale, a differenza, non so, che potrebbe essere un calcio come quello inglese, come quello tedesco. A quello inglese no, di sicuro, visto che non ne ha manco una. Infatti, il tedesco lo stesso, anche perché ha soltanto il Bayern. Sì, però guardi, io sono dell'idea che le generalizzazioni sono sbagliate. Le coppe sono anche qualcosa di aleatorio, di meravigliosamente aleatorio nel calcio, quindi Non bisogna trarre, secondo me, delle conclusioni di sistema. Certamente non eravamo i più sfigati del mondo prima di iniziare queste coppe, non siamo i più fighi del mondo oggi che abbiamo la Juventus in vantaggio 2-1 sul Real Madrid dopo la prima partita, il che vuol dire qualcosa, ma non tantissimo, certamente non qualcosa di definitivo. E abbiamo Napoli e Fiorentina che se la giocano con il sogno di andarsi a giocare l'Europa League a Varsavia. Quello che ho detto molto spesso è che è cambiato, e mi fa molto piacere, l'atteggiamento con il quale le squadre italiane hanno giocato l'Europa League, perché prima la giocavano come fosse la Coppa Italia, cioè come un fastidio, con i giovani, squadre di riserva, i panchinari, i magazzinieri, eccetera. Quest'anno l'hanno giocata in maniera estremamente seria e mi piace pensare che questo sia il risultato. Quindi non è che il calcio italiano sia improvvisamente risorto o che fosse morto del tutto prima. Ci sono circostanze, situazioni, anni, stagioni in cui le inglesi, con tutti i loro soldi, finiscono fuori come ramazze subito, o comunque non arrivano a giocarsi la primavera delle coppe. Ci sono stagioni in cui lo spernacchiato calcio italiano riesce a raggiungere questi risultati. Francesco, Roma, buongiorno. Buongiorno. Senta, forse mi farò qualche nemico. Ma se senti? Faccia quello che vuole. Allora, qui ogni tanto chiamate Moggi, no? Uh-huh. Come addirittura lo chiamano pure a fare moralista da qualche parte. Io raramente, vabbè, raramente, spesso, eh? Io raramente, devo dire, spesso. Vabbè, non dico fare... lei, io dico no, genere. no, ma ho deciso di chiamarlo oggi, ne sono... Sì, ma avete chiamato pure l'altra volta. Io no, ma comunque va bene. Non c'era lei, la rete era questa. No, poi ma ricordate voi quando, con quella partita che non mi ricordo qual era, che ha chiuso l'arbitro dentro lo stanzino e ha detto, dice, no, se lo volete andate a buttare giù la porta. Quello è un sequestro di persone, quello doveva stare sotto processo. No, Francesco, però a parte tutto, sotto processo per molte cose, conosciamo le vicende, però sa che quella non è vera. cioè quella di Papa non era. No, non è vero. Non è vero, no, l'ho sentita io in televisione, scusi. Francesco, mi creda, non, quella di Papa Resta chiuso nella, nello stanzino a Reggio, detto, a Reggio adesso Calabria, volete liberare, buttare sulla una, porta. È una è buttata la chiave. È una balla. Ma è una, io non una, cosa le cazzate, sì, è una, è una mil, è una millanteria. È una millanteria, va bene. Sì, no, ma quello, no, vuole, poi, poi no, poi ci dice, sono dice lei, no, Francesco, no, no, no, no, no, no, no, ma non è, non è questione di Moggi. Io ho parlato con Moggi, soprattutto ho parlato con Gianluca Paparesto, ho parlato con diverse persone, eccetera, eccetera. Cioè, mi creda, poi ci sono molte altre cose su cui possiamo discutere, le schede, gli arbitri, i designatori, possiamo discutere di quello che vuole. Quella storia di Papa Resta nello stanzino è una cagata pazzesca, come avrebbe detto qualcuno. No, è una bugia, semplicemente una millanteria, è qualcosa che non, non è accaduto. Poi ne sono successe di molte peggiori, però quella non, non, non è accaduta, semplicemente così. Allora, io voglio continuare a parlare con voi, naturalmente, 800 24 00 24, anche perché mi diverto da morire, però voglio fare una digressione sul, sul tema Juventus, giusto per respirare. E io all'avvocato e a Schumacher leggo, me da il, l'altro più bel giorno della mia vita professionale dopo Monza 75. Qui stiamo parlando dell'ottobre del 2000, quando vinciamo a Suzuka il campionato del mondo piloti, dopo 21 anni l'avvocato mi chiama al telefono due giri prima della fine e per la prima volta lo sentì piangere al telefono. Caro dottor Barisone, credo sia corretto togliere al signor Monti i privilegi di senatore a vita visti i disastri, scrive un ascoltatore che evidentemente ha anticipato un pelo orario giusto per non arrivare in ritardo. Non sono in ritardo le parole di Montezemolo, che ha vuotato il sacco con Sky e con altri media. Ciao Leo Turrini. Ciao maestro, come andiamo? Molto bene, tu? Allora, io do subito le notizie del traffico. Questa volta però mi riferisco al tratto Piacenza di Torino, sì, dove sta viaggiando a velocità di crociera l'avvocato Montezemolo, che tu hai appena evocato. E voi direte: dove sta andando l'avvocato Montezemolo? Vi rispondo io: sta andando in Fiat a Torino, Corso Mirafiori, a ritirare il premio Rododendro per il rosicone del mese, e gli è stato assegnato dalla giuria presieduta dal suo successore Bacchione. Perché voglio dire, insomma, io sono molto amico di Montezemolo. Lo so, ma io è per questo che ti ho teso un trappolone. Io te lo, confesso, ti ho teso un trappolone. Io voglio sapere cosa pensa davvero Montezemolo. Il presidente Italia, vicepresidente di Unicredit, che dice: ma perché in fondo la Ferrari poi ha avuto una gran botta di fortuna quest'anno. Sinceramente, via, premio Rododendro assegnato all'unanimità, e io direi anche exequo ad Antonio Conte, visto che si parlava della Juventus, un altro che rosica da paura. Ma l'hai visto? L'hai visto le foto di Conte, di Conte e del presidente federale che sorreggono la coreografia? Ho visto tutto, però voglio dire una cosa adesso, onestamente, come diceva Enzo Ferrari, no? Perché c'è Real Madrid Juventus a Madrid mercoledì e il Gran Premio di Spagna domenica a Barcellona. Enzo Ferrari diceva: se lo puoi sognare, lo puoi fare. E allora lasciateci sognare, non solo che la Juve passi, ma che la Ferrari corpassi la Mercedes. E a quel punto, io ve lo dico, bloccato sulla Aspi di Torino, sarà tutto merito di Montezemolo. Ma va bene, ma voglio dire, poi prima sentivo l'ultima parte, adesso tu non sei stato completo nel fare l'analisi dell'episodio Papa Resta Moggi, e che Moggi aveva un passepartout. Sì, no, non c'era bisogno di chiudere gli armi, no, però cioè, c'è questa, nell'iconografia classica ormai di questa vicenda, ma non è vero. La domanda è: finora è stato più bravo Allegri o Iron Mauri arriva bene al timone della Ferrari? Ecco, questo ci dobbiamo chiedere, no? Te lo dico io. Perché siamo qui, c'è la Spagna di mezzo al bivio, te lo dico tutti, io. Dimmi, te lo dico io chi è stato più bravo. Allegri, semplicemente perché Allegri è più avanti nei lavori rispetto a, ad Arrigo. Hai ragione, però bisogna a questo punto ricordare che Antonio Conte ha vinto anche lui il premio Rodo dentro, è cieco con l'avvocato Montezemolo, è come si rosica, che vogliamo fare, siamo sempre stati poi un paese di rosiconi, caro maestro. Senti Leo, ma tu dici che è rosicone perché ha detto ma questa Ferrari in fondo c'è anche qualcosa di mio, perché no, ma allora adesso per questa ragione io penso una cosa, l'avvocato Montezemolo, parlando seriamente per un attimo, cosa che mi riesce abbastanza difficile soprattutto con te che sei il mio ispiratore, diciamo così, rappresenta la storia migliore della Ferrari sia nei suoi anni giovanili come direttore sportivo del Drake che poi come presidente glorioso per oltre 20 stagioni, tutti i record battuti e così via. Io credo che però adesso, visto che le cose sono cambiate, è francamente un attimo un filo, dato che parliamo di gente che veste solo Caraceni, è un filo inelegante, no? Dire se vincono comunque merito mio. E allora io farei questa domanda al vincitore del premio Rododendro: e se perdono? Allora è colpa di Montezemolo. Cioè, qui già che vi mettiate d'accordo tra di voi, amici di Radio 24, hai capito? Facciamo intervenire Barisoni. Barisoni, il solito Barisoni. Focus economia, hai capito? Insomma, è la storia. Poi è come un fiume, scorre, va, bisogna prenderla anche con una certa filosofia. Io tra l'altro poi credo una cosa, guarda, te lo dico perché per me sei come un fratello. Oggi ero a pranzo proprio con Arriva Bene, no? Che lui è tifosissimo della Juve, l'avrete visto anche ieri sera in televisione, in tribuna, eh? Però lui giustamente mi diceva: ma vedi, la Juventus, cioè il calcio in Italia, che ci piaccia o meno, è come una faccenda di sette, no? Cioè non ci si riesce a riconoscere. È vero. Se tu sei della Juve, uno dell'Inter, l'altro del Milan, della Roma, del Napoli. La Ferrari ha questo di bello, questo è anche un merito del vecchio Drake e poi di Montezemolo, che è una delle poche realtà unificanti nel nostro paese. Cioè onestamente, quando parliamo della Ferrari è come Valentino Rossi, no? Cioè, alla fine poi siamo tutti sulla stessa barca, cosa che nel pallone, purtroppo aggiungo io, non ci riesce possibile, hai capito? Questo è allora, premio Rododendro, ecco, io te lo assegniamo, secondo me dovremmo trasformarlo in una cosa, tutte le settimane dovremmo, qui a questa bellissima trasmissione, che è la versione dostoieschiana, voglio dire, della comunicazione via radio, io e te dovremmo assegnare il premio Rododendro. Hai ragione, lo faremo, lo facciamo tutte le settimane. È una promessa, premio Rododendro. Questa settimana è exequo. Antonio Conte, Luca Cordero di Montezemolo. Io ti do già un appuntamento pubblico lunedì, dopo la corsa, e assegniamo il premio Rododendro. Saremo lì, assegneremo il premio Rododendro della settimana a ridosso poi della semifinale di ritorno di Champions, subito dopo il Gran Premio di Barcellona, dove attenzione perché la Ferrari si presenta con una macchina rinnovata al 70%. Vi do questa piccola discrezione. Al 70. Tranne il muso è praticamente totalmente diverso da quello che avete visto finora. E questa è una buona notizia o una cattiva notizia? Una buona notizia, poi sarà tutta diversa anche la Mercedes, però attenzione, quindi non è che solo noi in queste tre settimane di pausa Maranello abbiamo lavorato. Hanno lavorato anche i concorrenti, però la convinzione, e io già qui penso all'avvocato Montezemolo, tutti che rosicano, eccetera, questa macchina andrà come una scheggia. Sì. Io non dico che vinciamo in Spagna, ma però ci possiamo provare. Ecco, ci possiamo provare. Guarda, a me sembra mi sembra il primo crocevia della stagione. Sì, per tecnicamente capire. Hai ragione, perché si arriva in Europa, ci si arriva dopo una pausa di tre settimane. Ecco, guarda, qui vedremo veramente, dato che Benigni è andato al Senato a parlare di Dante, no? Qui si parrà la nobilitate degli ingegneri di Maranello e mi vado a spiegare. Sono anni che in Ferrari, tutte le volte che bisogna portare gli aggiornamenti sulla vettura, questi aggiornamenti si rivelano sempre come Podolski all'Inter, cioè buoni per andare a giocare a bocce, hai capito? Cioè delle cose francamente. Ma bravo che Podolski è un campione del mondo, dai. È il grandissimo Poldi anche lui. Però voglio dire, sono anni che in Ferrari effettivamente succede questo. Il povero Alonso si è fatto venire un'ulcera perforata. perché si arrivava a una tappa della stagione particolarmente significativa, ecco, ci sono le modifiche, gli aggiornamenti, i miglioramenti sulla vettura, gli avversari andavano avanti e la Ferrari faceva il Gambero Rosso, programma radiofonico famosissimo che tu non eri ancora nato, condotto da Enzo Tortora e poi da Giorgio Nebbia, quando c'era solo la radio, hai capito? E questo è stato il tallone d'Achille, insomma, della Ferrari degli ultimi 5-6 anni. Adesso andiamo a scoprire da Barcellona se questo problema con la gestione di Mr. Arrival è stato risolto. Perché ti dico così? Perché in Ferrari avevano fino a pochi mesi fa una galleria del vento ormai obsoleta, no? Che sembrava che mettevano il modellino in galleria del vento, il modellino diceva soluzione X, erano tutti contenti, andavano in pista, la soluzione era Y, no? Ed era una catastrofe e Alonso gli veniva luce a due denale, capito? Adesso pare che la galleria del vento funzioni, sì. Però siamo ancora allo stadio del pare e vedremo tra venerdì e sabato nelle prove se effettivamente queste correzioni, sviluppi li chiamano i tecnici, siano in grado di determinare, e come diceva Neil Armstrong mettendo un piede sulla luna, questo è un piccolo passo per un uomo ma un grande balzo in avanti per l'umanità ferrarista, capito? Questo lo capiremo solo vivendo. Tu sai che io sono il mogol di arriva bene, no? Ti seguo i testi, ma ti vengono benissimo perché è diventato ormai io aspetto di sentir parlare arriva bene Valentino Rossi, Ferrero per altre ragioni, De Laurenti, cioè, ma c'è un linguaggio, sono pochi personaggi che mi eccitano. Diciamo che hanno risposto a un appello che tu avevi lanciato a suo tempo da Radio 24, cioè dateci un linguaggio nuovo, no? che sia più consono ai tempi che viviamo, che possa essere immediatamente recepito da chiunque si imbatta in queste dichiarazioni. Pensa quando arriva bene in Bahrain, ha detto in inglese, no? Se dicessi che vinceremo il mondiale vorrebbe dire che sarei fuori come un balcone. Sì. Adesso in inglese I will be out like a terrafame, no? C'erano tutti gli anglofoni che non conoscono questo modo di dire, questo slang bresciano maranellese, che erano esterrefatti ed allibiti. Ecco, io in questo momento sono fuori come un balcone e quindi penso che la Ferrari possa fare molto bene in Catalogna. Ecco, lo penso anch'io. Senti, visto che questo è un grande happening. Vuoi altre notizie sul traffico? No, io vorrei. C'è un ascoltatore. Ma pare, però, scusa, cioè, voglio dirlo lì nella zona Bari Bitonto. Papa Resta non riesce a ripartire dalla macchina perché non trova la chiave. Fai il bravo, che sennò ti faccio le condoglianze per con un giorno di ritardo per il 5 maggio che è cascato ieri. No, vabbè, 5 maggio, Napoleone, ho letto tutte le biografie, sono stato anche a Waterloo, adesso sono 200 anni dalla dolorosa sconfitta di Waterloo e tu mi citi un altro 5 maggio, che voglio dire, insomma. Un episodio. No, ma io semplicemente volevo come tutti gli anni. Ma tu vuoi assegnare il premio Rododendro? Vuoi che a me, che ho creato questa istituzione, no, venga assegnato il trofeo? Ma io lo accetto, sto rosicando spaventosamente. Ma cosa ti devo dire? D'altronde, Ancelotti fa giocare un tizio, si chiama Carvajal. No, ma metti Gutierrez, il collaudatore della Ferrari, che forse fa meglio. Lascia stare, ma su, anche Ancelotti comincia a avere i suoi anni. Non so se si possa dire, ma insomma. Senti una cosa, no, voglio chiederti ancora questo, poi ti do, no, perché voglio togliere questa curiosità a un ascoltatore di Como che ha letto il tuo pregevole libro su Bartoli, il virgolettato di copia relativo al doping, sull'ipocrisia, vuole la tua sull'ipocrisia delle 7 strisce nere nell'albo d'oro del Tour. Beh, allora questo è un discorso che sai che abbiamo affrontato insieme quando io scrissi un libro su Pantani. Sì, lo so bene. Il pirata del cowboy. Sì, andiamo indietro di un paio d'anni. Allora, io francamente a quella che è, diciamo così, la ricostruzione retroattiva, no? Di un fenomeno come il doping faccio abbastanza fatica a credere, non perché non sia vero che Lance Armstrong usava certe sostanze, ne abusava eccetera, ma perché se si va a fare un'operazione del genere, e quello che è accaduto purtroppo e tragicamente anche a Pantani, no? Bisognerebbe avere sempre l'onestà intellettuale di dire, cominciando noi giornalisti, ok, Pantani certamente come tutti quelli che pedalavano in gruppo in quel periodo, no? Faceva ricorso all'epoca, che peraltro nell'epoca di Pantani, parlo di Manoni Campiglio eccetera, era tollerato e consentito dai regolamenti, anche perché questo non viene mai spiegato. Pantani non è mai stato fermato per doping, certo, certo, è stato fermato per valore, ma abbiamo detto lo sappiamo, ma l'opinione pubblica che insomma, ma non lo sa o vuol far finta di non saperlo, dai Leo, perché ecco, se lo vogliono far finta allo stesso modo Armstrong, come dimostrano peraltro tutte le testimonianze, non era certo l'unico, no, che facesse ricorso a determinati trattamenti. Il problema, secondo me, è sempre, rimane, mi dispiace di usare una parola, culturale, nel senso che o si riesce a far passare la consapevolezza che chi fa sport comunque deve essere il primo a rifiutare il ricorso a determinati, chiamiamoli così, aiuti, no? Oppure non ne veniamo fuori, capito? Certo. Perché in realtà, cioè, io Pantani l'ho conosciuto, ero un ragazzino in salita, staccava tutti, vinceva dappertutto, e all'epoca nemmeno era noto l'epoca, capisci cosa voglio dire? Certo. Quando diventò professionista si rese conto di avere di fronte della gente che da dilettante stracciava e gli arrivava davanti sulle montagne. E gli spiegarono, questi ti arrivano davanti perché ricorrono a un certo tipo, diciamo così, Allora, questo è il vero problema. No, ma sai, conviene a molti chiudere gli occhi e dimenticare tutto e far passare comunque questi e quegli altri per ladri e truffatori. È sbagliata, caro Genta, la logica del capro espiatorio. Ma sono d'accordo con te. In qualunque contesto, il dire, additiamo questo, è stato lui, quella è la pecora nera. Certo, no? Quello è il bastardo, il criminale, quello che imbrogliava e gli sputiamo addosso. Purtroppo questo atteggiamento ha anche delle conseguenze, talvolta, ripeto, tragiche, perché la vicenda di Marco Pantani ci insegna come talvolta ci si imbatte in fragilità particolari, certo, degli esseri umani, degli individui, che possono sfociare in qualche cosa di irreparabile. Quindi ci vorrebbe non una tolleranza nei confronti di chi Leo, si dopo, non nessuna tolleranza, nessuna pietà, io sono per le pene draconiane, squalifica vita eccetera eccetera, però neanche altri tipi di atteggiamento, quello Papa Resta chiuso nello stanzino, Pantani l'unico che si drogava. Leo, ci sentiamo lunedì, devo chiudere il programma, ti abbraccio fortissimo come fa Cruciani con Parenzo, e lo farà anche stasera. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, grazie a Daniele Buonamici in redazione, Gianmarco Fernati in regia. Ciao a tutti, arrivederci ragazzi, ciao.